Il progetto è stato realizzato in soli 15 mesi e mezzo dal momento in cui è stato congelato lo stile. Delta ha origine dalla piattaforma C-Compact, però per garantire l'eccellenza nell'abitabilità l'abbiamo incrementato di passo di 100 mm. Il conseguente aumento del peso è stato contenuto ricorrendo all'impiego massiccio di materiali innovativi, acciai altoresistenziali, stampati a caldo e per esempio la traversa per l'urto posteriore l'abbiamo realizzato per la prima volta in un materiale plastica in Xinori. La vettura è stata progettata per ottenere il massimo livello di sicurezza. E poi, un punto fondamentale, abbiamo installato due nuove motorizzazioni diesel ed una benzina, caratterizzate da elevate potenze pur mantenendo consumi ed emissioni assolutamente ridotto.